Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Oggi direi che non c'è un tema particolare, sono tre novità, tre dischi piuttosto recenti, piuttosto interessanti, qui rappresentano abbastanza quello che può essere, che possono essere vari aspetti, varie facce di quello che è attualmente la scena del cosiddetto jazz. Sempre con tutti i limiti che questa parola ormai sta rappresentando. Il primo è decisamente un giovane, un ragazzo abbastanza sconosciuto, al suo primo lavoro importante, diciamo, un disco uscito per la Clean Feed recentemente, l'ultima buttata, diciamo, Scott Clark, batterista, percussionista. Nasce a El Paso, quindi nel Texas, poi si trasferisce a Richmond, quindi musicalmente cresce e costruisce il suo lavoro a Richmond, zona piuttosto, diciamo, di confine per quanto riguarda anche la musica jazz. Ma questo è un lavoro interessante, intanto i collaboratori, questo è un quartetto, i collaboratori sono più o meno tutti sconosciuti, con Cameron Rolston al basso, Jason Scott al sassofono e Bob Miller alla tromba, oltre naturalmente a Scott Clark alla batteria. E a questo si aggiungono, nel primo brano che ascolteremo, si aggiungono anche il clarinetto basso di J.C. Kuhn e alla trombone Brown Uther. Ecco, questo lavoro è un lavoro interessante proprio per il tipo di linguaggio e per l'intenzione compositiva, anche stilistica, che è abbastanza originale, diciamo, da parte perlomeno di un giovane che è sotto i 30 anni. Ascoltiamo due brani presi da questo lavoro della Clean Feed, come dicevo, intitolato Bury My Heart. Thank you. Era il quartetto di Scott Clark, con questo lavoro uscito recentemente per la Clean Feed. È interessante, un musicista interessante perché riesce a raccogliere, a ordinare anche una memoria musicale che non è solo confinata all'esperienza jazzistica, alla quale si sentono comunque molte voci. Penso a Andrew Hill, penso anche a George Russell, ma anche a altre atmosfere che ricordano comunque la musica americana e la musica anche da film. Musicista completamente diverso, quindi questa era una voce, una delle innumerevoli voci di quanto accade, di quanto sta accadendo nell'ambito della musica che ci interessa. Un altro musicista invece, questo non è certo un giovane, ma è un musicista con una lunga esperienza alle spalle, si tratta di Otomo Yoshide, È un musicista decisamente interessante, anche questo sicuramente non confinabile nell'ambito jazzistico, anzi direi che utilizza il linguaggio jazzistico solo in alcune occasioni. Un musicista che è stato in qualche modo, si può dire, scoperto a New York all'inizio degli anni 90 da John Zorn, fa parte di questa generazione di giapponesi che danno un'interpretazione al free, al rock e comunque anche all'esperienza jazzistica in modo molto, come dire, legato alla musica elettronica, alla musica di ricerca. Sue esperienze, forse la sua esperienza più conosciuta, più famosa, è quella di Ground Zero, un gruppo che ha elaborato composizioni per musica elettronica, per giradischi e quant'altro, accostamenti musicali, che hanno poi segnato un periodo interessante, che hanno condizionato anche la musica di Zorn, penso ai Naked City, per esempio. E non solo. Comunque Otomo Yoshide ha pubblicato recentemente un disco in chitarra solo intitolato Left, dove compaiono alcune sue composizioni, ma soprattutto due brani. Uno è Song for Che di Charlie Hayden e l'altro è Lonely Woman di Ornette Coleman. Quindi due classici di quella che è stata la nascita del free, o con quantomeno di un certo tipo di free. A mio avviso sono due interpretazioni notevoli, specialmente la Song for Che, che ascolteremo, è piuttosto lunga, 13 minuti dura, e qui si ascolta anche il tipo di visione molto molto, come dire, molto eterea, molto molto folle, anche molto materica, di Otomo Yoshide. Thank you. Tomo Yoshide, guitar solo, left, abbiamo ascoltato la Song for Tse, il disco uscito qualche mese fa, e, altro musicista, un altro gruppo di musicisti che sono ben ancorati in quello che è la nuova generazione, le nuove frontiere dello sviluppo musicale jazzistico, è un disco uscito per l'etichetta ICM recentemente, sicuramente un disco atteso era, il trio di Chess Smith, con un trio d'eccezione, perché Chess Smith viene accompagnato dal pianoforte di Craig Taborn, dalle tastiere di Craig Taborn e dalla viola di Matt Maneri. Questo è un gruppo peraltro che non si costituisce per incidere un disco, non è una situazione occasionale, ma ha già al suo attivo anche un certo numero di concerti. È un progetto che ha una sua solidità, insomma, una sua intenzione precisa, questa di Chess Smith. In sostanza, il tipo di linguaggio musicale che persegue, che ricerca Chess Smith è quello che l'ha visto anche partecipe nell'esperienza di Tim Bern. Chess Smith, diciamolo, è uno dei musicisti che negli ultimi 10 anni più o meno è tra i più attivi e tra i più interessanti di tutta la nuova generazione, soprattutto New York. Ma perché riesce a muoversi in contesti anche molto diversi, ad esempio non soltanto come leader di sue formazioni, ma anche come sideman eccezionale, capace anche di reinterpretare e leggere quelle che sono le intenzioni dei musicisti con i quali collabora. Penso per esempio anche alle collaborazioni con Ben Goldberg, per citarne uno fra tutti, ma naturalmente con Mary Halvorson, con la quale poi ha iniziato praticamente la sua carriera, quantomeno la musicista con la quale si è presentato ad un pubblico più vasto, insomma, a livello internazionale. Un buon lavoro, a mio avviso, questo ultimo della ICM, un disco piuttosto cameristico e che ha un linguaggio suo molto, molto intenso, molto ben costruito, ben equilibrato. È interessante sentire la viola di Matt Maneri, musicista che direi sta crescendo stilisticamente e anche come presenza musicale, ha una sua personalità che riesce sempre di più ad essere collocata, ad essere non soltanto di accompagnamento o di colore, ma riesce ad avere anche uno spessore musicale notevole. Ascoltiamo un paio di composizioni prese da questo lavoro intitolato The Bell. Thank you.